Capitolo 123. La prima fatica, il leone Nemeo. La prima fatica che Euristeo impose a Eracle quando egli si stabilì a Tirinto fu di uccidere e scuoiare il leone Nemeo o Cleoneo, una belva enorme invulnerabile da ferro, bronzo o pietra. Benché alcuni dicano che questo leone fosse nato da Tifone o dalla Chimera e dal cane Ortro, altri sostengono che Selene lo generò con un terrificante sobbalzo e lo lasciò cadere sulla terra e precisamente sul monte Treto presso Nemea, dinanzi a una grotta a due uscite, e che per punire il mancato adempimento di un sacrificio, là lo lasciò affinché divorasse la sua gente. Chi ne soffrì di più furono i bambini. Altri ancora dicono che per seguire il desiderio di Era, Selene creò il leone dalla spuma del mare rinchiusa in un'ampia arca e che Iride, servendosi della sua cintura a mo' di guinzaglio, lo guidò tra i monti Nemei. Questi monti presero il nome da una figlia di Asopo oppure di Zeus e Selene, e la grotta del leone ancora si vede a 2 miglia dalla città di Nemea. Giunto a Cleone, tra Corinto e Argo, Eracle alloggiò nella casa di un contadino o pastore chiamato Molorco, il cui figlio era stato ucciso dal leone. Molorco già si preparava a offrire un capro a Era come sacrificio propiziatorio, ma Eracle lo trattenne. «Aspetta 30 giorni», disse. «Se ritornerò sano e salvo, sacrificherai a Zeus Salvatore, se no sacrificherai a me, siccome a eroe». Eracle raggiunse Nemea a mezzogiorno, ma poiché il leone aveva fatto stragi nel vicinato, non trovò nessuno che potesse dargli indicazioni, né vedeva tracce da seguire. Dopo aver battuto le pendici del monte Apesante, così chiamato da Apesante un pastore divorato dal leone, benché altri dicano che Apesante fosse figlio di Acrisio, che morì per un morso di serpente al tallone, Eracle si recò sul monte Treto e finalmente vide da lontano il leone che ritornava alla sua tana, il mantello chiazzato dal sangue della sua quotidiana strage. Eracle scagliò frecce in rapida successione, ma tutte rimbalzarono sulla fitta pelliccia e il leone si leccò le labbra sbadigliando. Eracle allora diedi piglio alla spada che si piegò quasi fosse di stagno, infine agguantò la sua clava e vibrò un tale colpo sul muso del leone che la belva entrò nella sua tana scrollando il capo, non per il dolore però, ma perché gli ronzavano le orecchie. Eracle, fissando con rammarico la sua clava infranta, decise allora di bloccare uno degli ingressi della caverna ed entrò dall'altro. Certo ormai che il mostro fosse invulnerabile dalle armi, iniziò con lui una lotta terribile. Il leone gli amputò un dito con un morso, ma, immobilizzatagli la testa, Eracle gli premette il braccio contro la gola finché lo soffocò. Con la carcassa del leone sulle spalle, Eracle ritornò a Cleone. Vi giunse al 30° giorno e trovò Molorco sul punto di offrirgli un sacrificio eroico. Invece, sacrificarono assieme a Zeus Salvatore. Compiuto il sacrificio, Eracle si fabbricò una nuova clava e, dopo aver in parte modificato i giochi Nemei, fino a quel giorno celebrati in onore di Ofelte, li dedicò a Zeus. Poi portò la carcassa del leone sino a Micene. Euristeo, stupito e terrorizzato, gli ordinò di non mettere mai più piede in città. In futuro avrebbe dovuto deporre i frutti delle sue fatiche dinanzi alle porte. Eracle si adoperò inutilmente per scuoiare il leone, finché per divina ispirazione pensò di servirsi degli artigli della belva, affilati come rasoi, e ben presto poté indossare la pelle invulnerabile a guisa di armatura, mentre il cranio del leone gli copriva il capo come elmo. Frattanto Euristeo ordinò ai suoi fabbri di forgiargli un'urna di bronzo che seppellì sottoterra, e da quel giorno, ogni qualvolta veniva annunciato l'arrivo di Eracle, egli si rifugiava in quell'urna e trasmetteva i suoi ordini per mezzo di un araldo, un figlio di Pelope chiamato Copreo, che Euristeo aveva purificato da un omicidio. Gli onori tributatigli dai cittadini di Nemea in segno di gratitudine per l'impresa da lui compiuta, Eracle, in seguito, li cedette ai suoi alleati di Cleone, che combatterono con lui durante la guerra Elea e caddero nel numero di 360. Quanto a Molorco, egli fondò la vicina città di Molorca e piantò il bosco Nemeo, dove ora si svolgono i giochi Nemei. Eracle non fu il solo che strangolò un leone in quei giorni. La medesima prodezza fu compiuta dal suo amico Filio, come la prima delle tre prove d'amore impostegli da Cicno, figlio di Apollo e di Iria. Filio aveva inoltre catturati vivi alcuni mostruosi uccelli antropofagi, simili ad avvoltoi, e sostenuta un'aspra lotta con un toro selvaggio, che guidò poi all'altare di Zeus. Dopo queste tre fatiche, Cicno, non contento, pretese anche un bue che Filio aveva vinto come premio a certi giochi funebri. Eracle consigliò a Filio di rifiutare, insistendo invece affinché Cicno tenesse fede ai patti. Cicno allora, disperato, si gettò in un lago che fu chiamato Lago Cicneo. Sua madre Iria lo seguì nella morte e ambedue furono trasformati in cigni. Il combattimento rituale del re sacro con gli animali faceva parte della cerimonia dell'incoronazione in Grecia, in Asia Minore, Babilonia e Siria. Ogni animale rappresentava una stagione dell'anno. Il loro numero variava a seconda del calendario. Nell'anno di tre stagioni le bestie, riunite poi nella chimera, erano il leone, la capra e il serpente, e di qui la leggenda che il leone del Citerone fosse figlio della chimera e di Ortro, il cane stella. Oppure un toro, un leone e un serpente, che corrispondevano alle metamorfosi stagionali di Dioniso, stando alle baccanti di Euripide. Oppure il leone, il cavallo e il cane, come le tre teste di Ecate. Ma nell'anno di quattro stagioni furono probabilmente il toro, l'ariete, il leone e il serpente, come le teste di Fanete descritte nel frammento orfico 63. Oppure toro, leone, aquila e serafino, come nella visione di Ezechiele. O più semplicemente toro, leone, scorpione e serpente marino, come i quattro segni dello zodiaco che un tempo coincidevano con gli equinozi e i solstizi. Queste ultime quattro pare fossero le bestie con le quali Eracle combatté nel corso della prima, quarta, settima e undicesima fatica, benché il cinghiale abbia sostituito poi lo scorpione. Dello scorpione si parla soltanto nella leggenda di Orione, un altro Eracle al quale fu promessa in sposa una principessa se avesse ucciso determinati animali selvatici. La stessa situazione si presenta nella leggenda di Cicno e di Filio, dove, in modo insolito, gli avvoltoi si sostituiscono al serpente, benché Ovidio e Antonino Liberale abbiano dato a tale leggenda uno sfondo omosessuale. In teoria, domando questi animali, il re acquistava potere sulle stagioni che si susseguivano nel corso dell'anno. A Tebe, città natale di Eracle, la dea Sfinge imperava su un anno a due stagioni. Era una leonessa alata con coda di serpente. Ecco perché Eracle portava una maschera di leone anziché una maschera di toro, come invece Minosse. Il leone appare con altri animali nell'arca della luna nuova, scena la cui raffigurazione, a quanto pare, diede origine sia alla leggenda di Noè del diluvio, sia alla leggenda di Dioniso e dei pirati. Si disse dunque che l'animale era stato creato da Selene, la luna. Fozio nega che Eracle perdette il dito nella lotta contro il leone. Tolomeo Efestione dice che il dito si infettò per la puntura di un insetto. Ma è più probabile che Eracle se lo amputasse per placare le ombre dei suoi figli, così come fece Oreste inseguito dalle erinni di sua madre. Un'altra caverna a due sbocchi è citata nell'Odissea, ed è la caverna dove Odisseo dormì la prima notte del suo ritorno a Itaca, sul promontorio che chiude la baia di Forco. L'ingresso settentrionale era riservato agli uomini, quello meridionale agli dei. Conteneva giare a due manici usate come alveari, bacili di pietra, e abbondante acqua sorgiva. Vi erano anche telai di pietra, stalattiti, sui quali le ninfe intessevano stoffe purpuree. Se dobbiamo ritenere esatta l'ipotesi di Porfirio sull'antro delle ninfe, e cioè che in queste grotte si celebrassero riti di morte e di divina rinascita, i bacili allora servivano per raccogliere il sangue e l'acqua sorgiva per la purificazione. Le giare erano probabilmente urne funerarie e attorno a esse le anime si raccoglievano ronzando come api e le naiadi, figlie del dio della morte Forco o Orco, erano le parche che intessevano vesti dal colore regale perché i rinati le indossassero. La grotta del leone Nemeo è a due uscite perché con la sua prima fatica Eracle iniziò il viaggio verso la morte rituale. Dopo tale morte egli diventa immortale e sposa la dea Ebe. La morte di 360 Cleonei ci fa pensare a un mistero a carattere calendariale. poiché tale era il numero dei giorni del sacro anno egizio, suddiviso in 5 parti in onore di Osiride, Iside, Nefti, Set e Oro. Le modifiche che Eracle apportò ai giochi Nemei implicavano forse cambiamenti nel calendario locale. Se il re di Micene, come Enopione di Iria, nemico di Orione, si rifugiava in un'urna di bronzo sottoterra e ne emergeva soltanto quando il pericolo era passato, può darsi che fingesse di morire una volta all'anno mentre il suo sostituto regnava per un solo giorno e poi riappariva. I figli di Eracle furono anch'essi sostituti. Apesanto fu uno dei molti eroi morsi al tallone da una vipera. Lo si può identificare con Ofelte di Nemea, benché non si sappia quale parte del corpo di Ofelte il serpente abbia morso.